Ben ritrovato Simone Nebbia di Teatro e Critica, ci sei caro? Oh. Oh, un paio di settimane fa con te avevamo dato i saluti alla diretta del Radioteatro per l'agenda della settimana teatrale romana e poi però ragionando con la redazione abbiamo trovato anche un modo per continuare la collaborazione, per cui le interviste audio riguardanti cinema e teatro che realizzo per il mio blog tuttascena1.wordpress.com, poi le accorpo e le mando alla radio che le ritrasmette quindi in forma registrata in replica negli spazi del divisionari e del radioteatro. Quindi martedì alle 14 non sarò più in forma registrata, in forma diretta la mia voce, la tua, ma andremo in forma registrata perché poi ho pensato anche al non perdere l'agenda che abbiamo portato avanti per tutto questo tempo. E quindi Simone, eccoci qui in forma registrata. Ci siamo ancora. Senti, dopo la nostra voce andrà in onda l'intervista alla scrittrice, in questo caso attrice Michela Murgia, che sarà in scena con uno spettacolo che è una dedica a Grazia Deledda e sarà in scena all'India, ma magari lo accennerai tu. E per il resto vai con gli appuntamenti da segnalare per questa settimana. Andiamo mai, perché è un teatro storico, ma insomma fa delle cose che magari ci hanno interessato poco in questi anni. Però quando torna a Roma, Gabriele Lasia ha un pubblico sempre eccezionale, in questo caso il padre di August Strindberg, al Teatro Quirino fino al 4 febbraio, è una messa in scena che lo stesso Lasia dirige con più attori e con soprattutto Federica Di Martino, che è un bagno, insomma, di una delle protagonisti. Lavia porta attenzione su quest'opera di Strindberg in un modo tutto interiore, una morsa tragica dell'unità di tempo, luogo e azione in cui deve essere compiuto quello che è il delitto perfetto, l'omicidio psichico. In questo contesto andremo a vedere al Teatro Quirino il padre di Gabriele Lavia, da un testo di August Strindberg fino al 4 di febbraio. Bene. In una sorta di conferenza perché sento un rimbombo un Eh po'. sì, sei in viva voce, caro. È la viva voce, bene, è meglio che la voce sia viva piuttosto che il contrario, e quindi andiamo anche a evidenziare che continua fino al 4 febbraio ancora un capolavoro come Il nome della rosa, che questa settimana non abbiamo potuto segnalare, ma fino al 4 febbraio al Teatro di Roma, al Teatro Argentina, Il nome della rosa di Umberto Eco, nella versione teatrale curata da Stefano Mazzini per la regia di Leo Muscato, con anche qui tantissimi attori in scena. Mazzini, insomma, ormai è tra gli autori teatrali italiani più apprezzati in Italia. In questi giorni ha debuttato al Piccolo a Milano, sono andato a vederlo qualche giorno fa, il suo Freud, l'interpretazione dei sogni, con la regia di Federico Diezzi, che arriverà per un giorno anche a Roma, adesso, insomma, non ho ben presente l'ipotesi, e dal grande romanzo Premio Strega del 1981 di Umberto Eco c'è questa nuova versione teatrale affidata appunto alla regia di Leo Muscato. Oh, in questo caso ho sentito uno degli attori, Luca Lazzareschi, quindi mandiamo anche la sua di intervista, visto che lo spettacolo è in scena ancora tutta questa settimana. Sulla conoscenza, sull'acquisizione di conoscenza da parte degli uomini, e lo andremo a vedere fino al 4 febbraio. Ben felice di ascoltare un grande attore come Luca Lazzareschi a parlare di questo loro spettacolo. Poi andiamo anche al Vascello questa settimana, perché dal 1 al 18 di febbraio c'è il debutto del Gabbiano Anton Chekhov con l'adattamento, la traduzione di Manuela Pusterman, e la regia che resta quella di Giancarlo Nanni, quindi è uno spettacolo storico. qualche anno. La stessa Manuela Kusterman è in scena anche in questa versione. Non ricordo, è forse di 20 anni fa è stato fatto questo Gabbiano con la regia di Giancarlo Nanni, che la stessa Manuela Kusterman cura per questa ripresa al Teatro Mascello, quindi un spettacolo da non perdere per chi ha coscienza di che cosa è stato il teatro di innovazione a Roma negli ultimi 30-40 anni. È un po' bizzarro, Simone, che lo stesso spettacolo vada in scena nella stessa città, nello stesso periodo, perché è in scena anche alle Stanze Segrete la versione di Ennio Coltorti. Ah, madonna, questo non ci avevo fatto caso, ed è un po' piuttosto particolare in effetti. Ma certo che sta tornando molto, tra qualche settimana vedremo anche lo Giovanni di Vinicio Marchioni all'Ambra Iovinelli, che ha appena debuttato la Pergola a Firenze. Io l'ho intervistato qualche giorno fa per Teatro e Critica e devo dire che si manifesta come una versione piuttosto interessante. Quindi assolutamente rivediamoci a Cecov, perché no, per questo periodo dell'anno a Roma. Poi andremo al Teatro di Roma, ancora questa volta al Teatro India, per vedere Fabrizio Saccomann, re di Hata, questo spettacolo che viene realizzato in occasione della giornata della memoria che è già stata, ma Shoah, frammenti di una ballata, 31 gennaio e 1 febbraio saranno al Teatro India. Fabrizio Saccomann, lo ricordiamo, autore e attore di molti monologhi importanti della storia teatrale, del monologo teatrale in questi ultimi anni, della narrazione soprattutto. E quindi andiamo al Teatro India. Andiamo anche questa settimana in un piccolo luogo che è il Teatro Comunale di Gian Lorenzo Bernini di Ariccia per rivedere sabato 3 e domenica 4 febbraio uno spettacolo di Fabio Massimo Franceschetti, vincitore di premi teatrali e letterari in questi ultimi anni, al Calvino, al premio Riccione, e signora questo suo vecchio testo, va in scena con la regia di Francesco Guercio e l'interpretazione di Francesca La Scala al Teatro Bernini di Ariccia. Procediamo, Federico. Sì. Che un pochino di cose ci stanno. Oh, ecco qua, Teatro Studio 1, torna il capitolo 3 di Teresa, Santa, Puttana e Sposa. È una produzione dello Studio 1, la regia di Lorenzo Montanini, ci sono più attori in scena anche qui, ed è una sorta di serie su questo personaggio, di Teresa, Santa, Puttana e Sposa, scritto da Marco Bilanzone, che torna in scena per questo terzo capitolo, terza parte di questo racconto, in cui Teresa, che ormai è adulta, è nel paese in cui ha trascorso un periodo nel immaginifico paese del Cozzuto Volturno, e inizia invece il suo periodo dell'età più adulta, quindi diversamente dai capitoli precedenti. Quindi questo ABC del combattimento tra Teresa e il Baiolo Nero, il sottotitolo di questo terzo capitolo, lo andremo a vedere al Teatro Studio 1 dal 1 al 4 di febbraio. Oh, ti aggiungo una cosa, Simone, sicuramente l'avrai segnata, però ho anche intervistato, e dopo andrà l'intervista, Dario Aggioli per lo spettacolo Sono tutti mio cugino, dal 1 al 4 febbraio al Teatro Trastevere. Benissimo, certo, hai fatto benissimo a ricordarlo. A me resta di portarci al Teatro Palladium invece, con questo lavoro che vedremo giovedì 1 e venerdì 20. Il venerdì 2 febbraio, Golden Key, con la drammaturgia di Carlotta Piraino, che è anche in scena, la regia di Federico Vigorito, Teatro Palladium che sta riaprendo i battenti pian piano, narra di due atlete tedesche che aspettano di gareggiare per la Germania durante le Olimpiadi di Berlino del 1936. La prima è ebrea, la seconda è un uomo, e condividono la stessa stanza nei giorni della competizione. Andremo a vedere appunto al Teatro Palladium 1 e 2 di febbraio. Okay. Vediamo ancora. Sì, perdonami. Sì, fai tranquillamente. Sì, ci sono. Mi era saltato qualcosa. Teatro Argo Studio per il debutto a Roma di Licia Lamera con The Black Tales Tour. due fibre parallele per dedicarsi a questa sua nuova avventura che porta il nome proprio della stessa Licia Lalera. Dal 2 fino al 4 febbraio, per vedere questo spettacolo, è un evento piuttosto speciale, spettacolo che è già girato in varie parti, sono 5 fiabe classiche, Sirenetta, Scarpette Rosse, Biancaneve, La Regina delle Nevi e Cenerentola, spogliata della parte più edulcorata e consolatoria e presentata nella versione più autentica. C'è un'immagine dello spettacolo che Licia Lalera in costume nero con un fumo attorno, che credo sia piuttosto eloquente del tipo di messa in scena. Poi benissimo. Ancora, sì. Ancora due teatri da visitare. Il primo è il Teatro Eliseo Federico, dove andremo a vedere due spettacoli. Questa settimana c'è il ritorno di Lacci dal 30 di gennaio fino all'11 di febbraio. Sì. In scena per questo testo di Domenico Starnone e la regia di Armando Pugliese, che racconta un po' la vita di coppia, la vita del matrimonio. Una moglie qua dice al marito: se tu te ne sei ascordato, egregio signore, te lo ricordo io, sono tua moglie. Questa è la lettera che Wanda scrive al marito che se n'è andato di casa, lasciandola con una tempesta di rabbia e tante domande che non trovano risposte. In questo contesto andremo a vedere lo spettacolo Lacci dal 30 gennaio all'11 di febbraio. Segue nell'altra sala, al piccolo Eliseo, un testo piuttosto interessante, Lampedusa di Anders Lustgarten, che con la Donatella Finocchiare e Fabio Troiano in scena, di Giampiero Borgia, è un testo inedito, giusto? Per la prima volta che è presentato in Italia. È un racconto sulla sopravvivenza della speranza, ovviamente anche vedere con le migrazioni di massa. Lampedusa ormai nel nostro immaginario collettivo è soltanto il luogo delle migrazioni che dal Mediterraneo arrivano fino al continente e attraverso le nostre coste, un luogo di disastri politici e sociali e umani, direi. Vediamo un po' Anders Lustgarten che tipo di testo ha tirato fuori per raccontare ancora una volta questo disastro sulle coste italiane. Dal 31 gennaio fino al 18 di febbraio, Lampedusa al Teatro Piccolo Eliseo, regia di Giampiero Borgia. Federico, io direi che l'ultimo lavoro di cui andiamo a parlare è proprio quello che tu citavi prima, ossia la regia di Veronica Cruciani, di questo testo di Marcello Freuds, Quasi Grazia, dedicato a Grazia Deledda e con in scena un'attrice un po' particolare, insomma, che interpreta proprio Grazia Deledda, cioè una voce letteraria contemporanea, per citare una scrittrice stata premio Nobel di molti anni prima, e cioè Michela Murgia, di cui tu prima ti hai parlato. Sì. Una narrazione agita dai personaggi, c'è un primo capitolo ambientato a Nuoro, dove la scrittrice si trasferisce nel 1900, poi il secondo spostato a Stoccolma nel dicembre del 26, e quello che appunto precede la cerimonia ufficiale di consegna del Nobel, il terzo si svolge a Roma nel 1935 nello studio radiologico in cui le verrà diagnosticato il tumore che la ucciderà appena un anno dopo. Quindi uno spettacolo biografico dedicato a una scrittrice importante del secolo Novecento italiano, Grazia Deledda, Quasi Grazia, sarà in scena al Teatro India dal 30 di gennaio fino al 4 febbraio. Benissimo. Allora Simone, ci si sente la settimana prossima. Un abbraccio e ci si vede a teatro. Ricordo a chi ci ascolta che dopo di noi ci saranno le interviste a Luca Lazzareschi, l'attore Luca Lazzareschi per Il nome della rosa, che è in scena ancora per questa settimana al Teatro Argentina, e a Michela Murgia per Quasi Grazia, di cui hai parlato poco fa tu, fino al 4 febbraio al Teatro India, e poi al nostro amico Dario Aggioli, che è in scena al Teatro Trastevere con Sono tutti mio cugino dal 1 al 4 di febbraio. Simone, ciao! Un abbraccio a tutti. Ciao, ciao, ciao. Siamo in collegamento telefonico con Luca Lazzareschi, che sarà in scena con lo spettacolo Il nome della rosa dal 23 gennaio al 4 febbraio al Teatro Argentina. Intanto, Luca, ben trovato. Grazie a voi. Ci racconti un po' di questo spettacolo, che veste ha assunto rispetto al racconto, rispetto anche al film, che ha segnato anche un importante momento cinematografico. la versione teatrale del romanzo, il lungo romanzo di 600 pagine di Eco, firmata da Stefano Massini, adattata e ridotta da Leo Muscato, che ne è anche il regista. E quindi è stato fatto un lavoro di drammaturgia sul testo che ha ridotto in modo inevitabile, diciamo, le 600 pagine a una durata di una rappresentazione teatrale media, quindi sotto le 2 ore e mezzo. Ciò nonostante, anche se c'è stata una grande riduzione, lo spettacolo porta in scena, diciamo così, i nuclei narrativi del romanzo di Eco, che tutti conoscono, che molti conoscono e che molti hanno conosciuto anche grazie al film degli anni 80, poco successivo all'uscita del libro, film che ebbe un grandissimo successo, così come il libro ha avuto un grande successo. Ricordiamo che è il libro più venduto della letteratura italiana del Novecento, il più letto in assoluto, con tanti milioni di copie vendute. E lo spettacolo, per chi ha letto il libro, riprende fedelmente la trama del libro stesso. È un'indagine svolta da un monaco che si chiama Guglielmo da Baskerville, che arriva in un'abbazia dove deve avvenire un importante incontro tra il papato e la chiesa per dirimere questioni teologiche molto importanti, ma viene investito dall'abate di questa abbazia di un'indagine, perché avvengono dei delitti di cui si deve scoprire il colpevole e movente. Questa, in grande sintesi, diciamo, è la trama orizzontale del romanzo, che è di fatto un thriller che ha però molti piani di lettura. Come sappiamo, Eco era un grande semiologo, un grande filosofo, e quindi, diciamo, lo spettacolo, così come il libro, offre tanti piani di lettura dal punto di vista filosofico, storico, sul Medioevo, ma attraverso una trama thriller gialla. Senti, rispetto alle pagine di Eco, ecco, cos'è di quel romanzo che più ti affascina e più ti convince? No, la fedeltà, diciamo, con cui sia Stefano Massini sia Muscato hanno riprodotto, non era un'operazione facile, era una sfida che è stata vinta, perché noi siamo ormai a oltre la 70ª replica, lo spettacolo ha sempre un grande successo. La fedeltà con cui il nucleo essenziale del romanzo di Eco è stato riportato in scena, attraverso anche uno sforzo produttivo del Teatro Stabile di Torino, principale produttore insieme a Genova e al Veneto, al Teatro Stabile del Veneto, in scena un grande sforzo, diciamo, scenografico, sui costumi, sulle luci, sulle proiezioni, per ricostruire quell'ambiente medievale nel quale Eco fa svolgere la vicenda del suo romanzo. Quindi una distribuzione con molti attori, siamo 13 attori, molti dei quali fanno doppi, tripli ruoli, quindi è una produzione, diciamo, molto grossa, molto grande, molto rara da vedere di questi tempi sui palcoscenici italiani, dove si tende, per motivi economici e ministeriali, a ridurre il numero degli attori e si tende a riproporre una drammaturgia fatta di pochi personaggi. Quindi mi convince, diciamo così, l'impegno produttivo drammaturgico che riporta essenzialmente lo spirito del romanzo di Eco in scena e fa vivere gli spettatori insieme ai personaggi che agiscono sulla scena. Luca, a livello personale, cosa ami delle pagine di Eco? Dunque, il romanzo di Eco è un romanzo, come si dice, polisemico, ha tantissimi piani di lettura. Io lo lessi a suo tempo quando uscì, così come vidi il film quando uscì, quindi ero molto giovane, sono passati più di 30 anni. Amo in particolar modo il personaggio di Guglielmo da Baskerville, che è il personaggio che io interpreto, il quale è un personaggio che si ispira, che Eco, come dire, ispira alle pagine di Arthur Conan Doyle, a Sherlock Holmes, ma è allo stesso tempo un filosofo razionalista che indaga il reale attraverso i segni che la realtà gli rimanda, un frate francescano, quindi un uomo di fede, ma anche a suo modo un laico, un uomo del Medioevo, ma con un occhio già puntato verso il Rinascimento, che ancora, anche se lontano, è un punto di riferimento ideale per il personaggio di Guglielmo. Un uomo che indaga sulla verità, cerca la verità, ma sa che la verità non esiste, la verità dogmatica assoluta non esiste, ma esistono tante verità quanti sono i punti di vista che la affrontano, che la indagano. Forse un relativista, ma certamente un uomo di grande ironia, un inglese, quindi è il suo personaggio che è questo personaggio che naturalmente mi affascina e che mi porto dietro e che porto avanti, diciamo, in questi mesi di lunga tournée che approderà appunto a Roma, al Teatro Argentina a breve. E invece rispetto al lavoro di Stefano Massini, che oggi è una delle firme più importanti e prolifiche nella drammaturgia nazionale? Massini ha fatto un grande lavoro, naturalmente Massini è un grande drammaturgo, un grande scrittore, veramente un'eccellenza della letteratura italiana e della drammaturgia italiana, e il suo lavoro è stato, come ho già detto, molto approfondito e molto difficile, perché ridurre un romanzo del genere non era un'operazione semplice. Credo che ci sia riuscito nel modo più assoluto e i risultati di pubblico e di critica ce lo confermano ogni sera in ogni piazza. Senti, il lavoro tuo da attore in un cast così allargato? Un attore affronta i personaggi sempre più o meno nello stesso modo, insomma non c'è differenza nell'affrontare un personaggio di derivazione letteraria o un personaggio scritto per il teatro, come non so, i personaggi shakespeariani, Amleto, Macbeth, Antonio, eccetera. E quindi il lavoro è stato, come dire, come da protocollo, con una compagnia di straordinari colleghi, cito Gigi Liberti, Eugenio Allegri, Bob Marchese, Giovanni Anzaldo, che fa il giovane Azzo da Melk, che è un po' lo specchio di Guglielmo da Baskerville. Il lavoro è stato di ricerca di una verità, partendo dal copione che avevamo. Io credo che tutto sia nel copione che un attore ha di fronte nel momento in cui si siede al tavolo della prova il primo giorno, è tutto lì dentro, non bisogna andare a cercare altro. E ecco, ha dato grandi spunti a un attore per potersi divertire ad interpretare quel ruolo di questo francescano dotto, sapiente e ironico. Allora, ringraziamo Luca Lazzareschi, ricordiamo lo spettacolo Il nome della rosa dal 23 gennaio al 4 febbraio in scena al Teatro Argentina a Roma. Un abbraccio, un in bocca al lupo. Grazie a voi. A presto. Grazie. Con Dario Aggioli, che è coautore, regista e cointerprete dello spettacolo Sono tutti mio cugino, in scena dal 1 al 4 di febbraio al Teatro Trastevere, chiaramente a Roma. Dario, ben ritrovato. Grazie, Federico. Senti, allora, raccontiamo un po' questa storia, di cosa si parla? Sì, allora, diciamo, abbiamo preso spunto da un piccolo paese nell'Appennino reggiano, che si chiama Corneto, anzi è proprio una frazione di un altro paese che si chiama Toano, ed è un paesino di 200 abitanti dove ci sono circa 5.000 vacche, dove si fa il latte del parmigiano reggiano, ed è un piccolo paese dove è originaria la famiglia di Enrico Lombardi, che è l'altro coautore e l'attore principale dello spettacolo. Praticamente questa famiglia era una famiglia che aveva 12 figli e che era un punto di riferimento per il paese, perché il padre di questi 12 figli, cioè il nonno di Enrico, era era attivo politicamente, ma era proprio una brava persona che aiutava tutti, eccetera, e in più soprattutto c'era l'unico telefono del paese, era nella loro casa. Prima era in casa loro e poi a un certo punto la SIP, Allora, la compagnia telefonica, lo dico per i più giovani, aveva messo il telefono pubblico nel loro garage. Perciò era un punto di riferimento proprio, cioè qualcuno chiamava, loro rispondevano a casa, gli dicevano richiama tra mezz'ora, non andiamo a chiamare per il paese. Senti, l'idea di mettere in scena questa tribù familiare? L'idea è proprio perché in verità vogliamo raccontare cosa voleva dire prima condividere, mentre adesso condividere vuol dire ti faccio vedere qualcosa che tu in questo momento non hai e che io sto vivendo, ma no, tu non vivi insieme a me, invece prima condividere abitiamo insieme un'esperienza. Perciò il paese diventava una famiglia. Succedeva qualcosa all'interno del paese e c'era sempre qualcuno che poteva dare una mano. La nonna di Enrico ha avuto un incidente e il parroco del paese l'ha portata in macchina per un'ora e mezza, con un'ora e mezza di macchina all'ospedale vicino perché era l'unica persona con la macchina. Perciò la macchina del paese era quella del parroco, il telefono del paese era quella della famiglia di Enrico. Sì. Senti, come avete immaginato la messa in scena? Guarda, la messa in scena è semplicissima perché è un finto spettacolo di narrazione, quello Ok. chiamo un po' antinarrazione, dove Enrico parla e io disturbo. Io sono un personaggio, tra l'altro non inventato, ma preso dalla realtà di questo piccolo paesino che noi abbiamo conosciuto, un personaggio che noi abbiamo conosciuto. E io sono muto, totalmente, e perciò un po' racconto anch'io tramite un maiale di quelli dell'autogrill, ma la cosa più importante della messa in scena è una cabina telefonica che rappresenta la cabina telefonica che stava nella famiglia di Enrico nel garage, solo che noi facciamo un piccolo giochetto con il pubblico e chiediamo al pubblico di mandare un SMS prima di spegnere i cellulari, mandare un SMS a una persona che loro non vedono da tanto tempo e che vogliono sentire, e questa persona in quell'ora li chiamerà alla cabina. Perciò lo spettacolo viene interrotto dalle telefonate che il pubblico riceve dai propri amici. Perciò Enrico risponde al cellulare, e al cellulare alla cabina telefonica, e appunto alla cabina telefonica lui risponde e trova, non so, ah, vuoi Federico? Ok, Federico, puoi salire sul palco perché c'è Luca che ti chiama. E questo, perciò lo spettatore si fa la sua telefonata nella privacy della cabina e poi viene accolto come veniva accolto nella casa della famiglia di Enrico, come tutti quanti, con un bicchiere di Lambrusco e 2 fette di salame. È una produzione teatro forsennato, ci parli un po' di questa esperienza? Coproduzione. Sì, allora, per la verità è una coproduzione forsennato con l'Associazione Quinta Parete. L'Associazione Quinta Parete è la compagnia appunto di Enrico che lavora nel Reggiano. E noi siamo Teatro Forsennato, che siamo appunto di Roma, siamo al 20º anno di lavoro, abbiamo sempre lavorato su improvvisazione, anche questo è uno spettacolo che ha un canovaccio, ma un testo, e da sempre abbiamo sempre fatto questo lavoro. Lo spettacolo, probabilmente qualcuno ci ha conosciuto per lo spettacolo di Ebrei sono matti, che è tuttora in scena, si trovi, io sono dietro il palco di un teatro dove andrò in scena nel Viterbese. E niente, perciò è una coproduzione ed è bello incontrare due tipi di lavoro differenti, diciamo, e incontrarsi nel lavoro, insomma, con altre persone che hanno fatto un altro percorso. Si tratta di un debutto, poi ci sarà una circuitazione? Sì, in verità è il debutto romano, perché il debutto nazionale è stato fatto a Milano, a ottobre. Abbiamo delle date sempre vicino a Reggio Emilia, abbiamo fatto anche delle anteprime prima di rodare, cioè abbiamo rodato lo spettacolo perché essendo in produzione dobbiamo comunque vedere come funzionano alcune cose, anche la stessa struttura della cabina, insomma. Perciò dovremmo tornare a marzo a Rubiera, siamo in stagione a Rubiera, tra l'altro insieme a nomi come Dania Manfredini, Paolo Rossi, eccetera, e poi abbiamo altre date, se non sbaglio, in Campania. Ma purtroppo in questo momento mi dispiace, ma sicuramente a Roma abbiamo solo queste 4 date per il momento.